Europa 24. Buongiorno dalla redazione, da Maria Luisa Pezzali. A Lussemburgo la riunione dell'Ecofin. Dopo il G8 l'Europa torna a parlare di occupazione e crescita. È una due giorni importante per il futuro dell'unione bancaria, quella che si sta svolgendo a Lussemburgo. I ministri delle finanze della zona euro hanno approvato ieri sera nuove regole sulla ricapitalizzazione diretta delle banche da parte del meccanismo europeo di stabilità. L'obiettivo è di spezzare finalmente il circolo vizioso tra bilanci sovrani e bilanci bancari. L'accordo tra i 17 è un compromesso e il delicato aspetto delle ricapitalizzazioni retroattive è stato risolto scegliendo di effettuare l'operazione caso per caso. Oggi i ministri devono decidere nuove regole sul fallimento e la ristrutturazione delle banche in crisi. Anche questo tema è complesso. L'Ecofin deve trovare un giusto equilibrio tra la necessaria armonizzazione delle regole per proteggere il mercato unico e una flessibilità che tenga conto delle peculiarità nazionali. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lussemburgo. E l'Italia rischia una nuova multa. Roma deve attuare le regole europee contro l'evasione fiscale o rischia di essere deferita davanti alla Corte di Giustizia. Questo è il monito della Commissione, che ha inviato all'Italia e a Belgio, Grecia, Polonia e Finlandia un parere motivato, seconda tappa della procedura di infrazione, per non averla informata del recepimento della direttiva europea sulla cooperazione amministrativa. Questa doveva essere applicata dal 1 gennaio e riguarda il rafforzamento dello scambio di informazioni. Il Consiglio europeo del 27 e 28 giugno rappresenta una tappa cruciale per il futuro europeo di Serbia e Kosovo, ma è sempre più probabile un rinvio della decisione sulla data di inizio dei negoziati per l'adesione della Serbia, così come è possibile che slitti la firma dell'accordo di stabilizzazione e associazione del Kosovo. Intanto però ieri a Bruxelles si sono incontrati i primi ministri Dačić e Tadić. Prove di dialogo in corso. Succede in quella parte di Europa, i Balcani, segnata da una guerra recente ferita da atroci crimini. Un dialogo caldeggiato dagli Stati Uniti e sul quale alcuni Stati europei, tra cui l'Italia, stanno impegnando molte forze. Ieri a Bruxelles si sono incontrati i primi ministri di Serbia e Kosovo. La convocazione era arrivata dall'alto rappresentante europeo per la politica estera, Catherine Ashton. Good work had been done and concrete progress. Il serbo Ivica Dačić e il kosovaro Hashim Thaci hanno trovato un accordo su numerosi dossier, in particolare in materia di giustizia, polizia e per le prossime elezioni municipali. Questo ha spiegato la baronessa Ashton al termine di una riunione durata oltre 6 ore. Soprattutto l'alto rappresentante ha annunciato che i progressi nella normalizzazione dei rapporti tra i due paesi sono stati evidenti, una condizione ritenuta fondamentale per il definitivo avvio del processo di integrazione nell'Unione Europea. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. No al bando delle sigarette slim, no ai pacchetti generici e a quelli ultra shock e no al divieto del mentolo. Al primo round di votazioni al Parlamento europeo sulla discussa nuova direttiva tabacco cadono diverse delle proposte più forti presentate dalla Commissione europea. La presidenza irlandese di turno del Consiglio europeo cercherà oggi a Lussemburgo di conseguire il sostegno di una maggioranza qualificata di Stati membri per nuove proposte. Se l'obiettivo resta quello di un giro di vite alle politiche antifumo. Sono Federico Taddia e oggi vi presento la giornata nazionale informativa sul marchio del patrimonio europeo, promossa dalla Commissione europea e dal Ministero per i beni e le attività culturali. Lunedì 24 giugno alle 11 presso la Sala del Consiglio del Ministero, via del Collegio Romano 27, Roma, verrà quindi presentato il marchio, che può essere assegnato a siti che abbiano apportato un contributo rilevante alla storia e alla cultura europea, compresa la costruzione dell'Unione, segnati da una chiara dimensione educativa rivolta ai cittadini, soprattutto ai più giovani, nonché in grado di contribuire alla creazione di reti finalizzate allo scambio di esperienze e buone pratiche. Tutte le informazioni circa l'evento, le modalità di candidatura e i criteri di selezione del marchio si trovano all'indirizzo www.marchiopatrimonioeuropeo.beniculturali.it. È tutto per Europa 24 ore 13, ci risentiamo alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.